è il racconto coinvolgente, una leggenda ricca di messaggi. Chi scrive questo testo del Vangelo redige appunto il racconto avendo alle spalle tante storie simili, soprattutto religiose in quel tempo. Soprattutto questo racconto è redatto, cosa più importante, alla luce di tutto quello che fu la vita, le parole, l'azione, la testimonianza di Gesù. Detto questo, a noi importa chiederci che cosa ha a che fare con la nostra fede in Gesù Cristo, quali provocazioni alla nostra fede. Provo a dire due o tre cose. Innanzitutto, al centro del brano stanno i magi a cui fanno da controfigura il re Erode e i capi del popolo. Questi re magi erano poi i cercatori sulla base delle teorie astrologiche, erano dei commercianti che giravano. Comunque si tratta di saggi, di uomini di scienza anche, che vanno alla ricerca dei segreti di quello che avviene. Siamo così un po' tutti, Ci sono due domande. Dov'è il re dei giudei? E questo viene chiesto sulla sapienza di questi ricercatori. Chi sono? Non sono re, non si dice il loro nome, portano doni, citati così, con oro e incenso, probabilmente frutto di tutta una elaborazione favolosa dentro nelle storie bibliche. Nel testo indica per niente affatto che sono dei re, siamo noi che li chiamiamo i re magi. Appartiene ai racconti questa storia. Quel che è certo è che erano gnostici, cercatori di verità. La loro presenza però ha un duplice significato. Gesù rifiutato è riconosciuto da stranieri, avanguardia, prefigurazioni delle conversioni delle nazioni, infatti si dice molti verranno da Oriente, da Occidente e siederanno a tavola con Abramo, Isacco, Giacobbe nel Regno dei Cieli. Ma, e questo ci può interessare anche oggi, nelle parole dei magi e nella citazione biblica viene sottolineata la portata politica della nascita di Gesù, anche se priva di segni esterni, segni di potenza, segni di predominio, segni di possesso. Comunque c'è chi veglia su Gesù. Tanto che i magi obbediscono alla voce divina. Dalla sapienza alla coscienza. Potremmo dire che sono un esempio di obiezione di coscienza. Sono i primi obiettori di coscienza. Non mettono al servizio del re Erode la loro conoscenza. Infatti si dice, per altra strada, riprendono il loro cammino e disobbediscono a quanto il re Erode pensa. Ma c'è un'altra cosa che si coglie, se lo leggiamo con un po' di calma, quello che dice Matteo, perché è di una polemica fortissima. Infatti, i sacerdoti conoscono il tempo e il luogo della nascita del Messia, ma non si muovono. Anzi, via via prenderanno una posizione sempre più ostile, tanto da volerlo morto. I gestori delle istituzioni sacre presumono di aver catturato Dio dentro i loro schemi, per cui bisogna far tacere ogni parola profetica. Cancellare ogni attesa di terra nuova e cieli nuovi. E così anche il popolo sonnecchia, soddisfatto di una rassicurante ritualità. C'è oggi, si dice giornalisticamente, i messaioni, cioè quelli che vanno alla messa. I magi, Erode si mostra interessato al Messia, ma in un gioco di potere. I magi sono degni di ammirazione, non per il dono che portano. Questo interessa la nostra civiltà del consumare. Ma sono degni di ammirazione perché sono uomini in ricerca, felici di seguire una stella che brilla, quasi a rispondere in verità a quella realtà di cui gli uomini hanno più bisogno, l'utopia, la speranza. Mi viene da offrire questa conclusione. Al termine del prologo del Vangelo di Giovanni, viene indicato Gesù come colui che ha narrato, raccontato, illustrato, ha tolto il velo su Dio. Quindi Gesù è l'esegesi, l'analisi più profonda, vivente, del Padre. Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Deduco, la nascita di Dio in Gesù, che non è l'inviato che va a soddisfare col suo sacrificio sulla croce un credito dovuto al Padre a causa dei peccati degli uomini, ma la nascita di Dio in Gesù nella piena condivisione della mia umanità. Che è non solo l'incarnazione di un amore, ma è anche la rivelazione del modo divino di amare, un modo che mantiene la mia libertà di figlio, figlio di questa terra, figlio di questa storia e figlio anche del Padre. La mia libertà in cammino che dà qualità alla vita che è propria del Padre e che me la rispetta. A me non resta che, come dire, obbedire, riporre fiducia in questo modo di amare di Dio. Così mi sento anche capace di amare, come dicevamo ieri. Gloria a Dio.